Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giancarlo Moretti Polegato, l'impresa di famiglia tra le viti e la settecentesca Villa Sandi, di Anna Marino. Fin da piccolo io e anche mio fratello siamo sempre stati coinvolti nel mondo del vino. Questi momenti della vendemmia, che sono è il momento più gioioso, più bello, più colorato di tutto l'anno agrario del vino. E mi ricordo proprio sta gente che si vendemmiava tutto a mano, che cantava, che veramente con soddisfazione e gioia vendemmiavano. E queste colline poi che sono anche abbastanza in salita, in discesa, quindi si era una vendemmia anche veramente coraggiosa, non è in pianura come altre parti d'Italia. Quindi con questo paesaggio di montagne che sovrastano le colline del Cartizze, del Prosecco, che è stato mare tra Valdobbiadene e Conegliano, veramente un paesaggio straordinario. Così racconta i primi ricordi nelle vigne Giancarlo Moretti Polegato, proprietario e presidente dell'azienda vitivinicola Villa Sandi S.p.A., che ha vissuto nell'infanzia insieme al fratello Mario Moretti Polegato, oggi patron di Geox. La famiglia Moretti Polegato, da generazioni dedita alla cultura del vino, è legata al territorio che è stato il giardino di Venezia nei secoli dello splendore della Repubblica Veneta e che ancora oggi ne porta i segni nelle ville venete. Come Villa Sandi, il cuore delle aziende vinicole della famiglia, edificio di scuola palladiana risalente al 1622 ai piedi delle colline trevigiane, dove si stendono i vigneti fin dal XV secolo, in particolare nell'area storica e tradizionale fra Valdobbiadene e Conegliano e sui colli asolani. Radici forti, profonde e quotidiane che affondano nella terra e nella storia della famiglia Moretti Polegato, superando ogni passaggio generazionale. Il Veneto, sappiamo, è stato sempre una regione agricola e la nostra famiglia da più generazioni produceva vino. Cosa è successo? Che io e mio fratello siamo trovati, io ero appena diplomato, che purtroppo è mancato il padre in un incidente stradale. Io ho 20 anni, mio fratello poco più, e fortunatamente il papà ci ha sempre coinvolto nel mondo del vino. Io mi ricordo che le mie vacanze estive le ho sempre trascorse in cantina, nei lavori di cantina, nei lavori della campagna. Con questa disgrazia siamo stati pronti ad affrontare l'impresa, la nostra attuale azienda, e siamo riusciti sicuramente a superare quel momento che non è stato facile. Poi si va avanti, l'azienda è cresciuta, poi negli anni 95 mio fratello ha avuto l'idea, come qualcuno sicuramente sa, della Geox, la scarpa che respira, e ha lasciato a me la conduzione della tradizione di famiglia, che è il vino, pensando sempre che il vino italiano prima o dopo doveva anche imporsi nei mercati esteri, perché dobbiamo ricordare che il vino in questi ultimi 30 anni, il vino italiano, ha avuto una grande qualità, è aumentata parecchio e abbiamo conquistato veramente tutto il mondo. Noi oggi siamo presenti in 92 paesi e grazie anche alle bollicine di casa, che è il Prosecco, che sappiamo che successo che ha avuto in questi ultimi anni, vero? Piace, è un prodotto che veramente ha conquistato, direi, tutti i consumatori del mondo. Le ville venete erano non solo residenze estive delle famiglie della nobiltà e della ricca borghesia mercantile, ma anche luogo di governo delle vaste proprietà terriere che si sviluppavano intorno. Villa Sandi sorge tra i vigneti della tenuta di Crocetta del Montello, ai piedi delle colline trevigiane del Prosecco, tra il Montello e il fiume Piave. Villa Sandi è una villa del 1622. Sandi sono dei nobili veneziani, come tanti altri, che si costruivano queste dimore, che poi erano delle grandi aziende agricole in tutta la regione Veneto, Friuli, ma in particolar modo nelle province di Treviso, di Vicenza, di Padova. Da anni è stata aperta al pubblico, questo è importante, perché tante ville venete sono private oppure non sono restaurate, quindi purtroppo non sono visitabili. Noi invece abbiamo unito vino e arte. I visitatori oggi vengono guidati in un percorso che dalle storiche cantine sotterranee, attraverso le gallerie risalenti alla Prima Guerra Mondiale, porta direttamente in villa. Nelle fasi di restauro, beh, acquistiamo sta villa negli anni 90, prima avevamo già tutti i terreni e i vigneti attorno, scopriamo delle cantine, delle gallerie sotterranee, perché Villa Sandi dista a poca distanza dal Piave, famoso fiume che è stato sicuramente oggetto di grandi combattimenti nella prima guerra mondiale tra l'Austria e l'Italia, e quindi la villa, che era presidio militare italiano, aveva queste gallerie che portavano al fronte. Noi le abbiamo ristrutturate, adesso abbiamo più di 2 chilometri, perché noi non solo produciamo prosecco, ma produciamo anche un metodo classico, opere trevigiane. E oggi veramente questa è diventata la meta più attrattiva anche delle nostre visite. Le gallerie sono tutte tappezzate di bottiglie, perché il metodo classico è come lo champagne, queste bottiglie rimangono 3, 5, 7 anni ad affinarsi. Il fatturato di Villa Sandi S.p.A., azienda vitivinicola che produce vini e prosecco di OCG e DOC in Veneto, si attesta a 88,7 milioni di euro nell'esercizio 2016, segnando un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Villa Sandi vende i propri vini in 92 paesi nel mondo e Regno Unito, Stati Uniti e Germania sono i mercati che trainano la crescita a doppia cifra dell'ultimo esercizio. Le vendite nel mercato domestico, nonostante la crisi dei consumi in Italia, rimangono la prima area di sbocco del gruppo e rappresentano circa il 40% delle vendite totali. Noi, per quanto riguarda l'export, abbiamo investito molti anni fa, perché credevamo molto che il vino italiano potesse aver successo all'estero. Oggi chiaramente è evidente per tutti ormai, ma noi abbiamo iniziato molti anni fa e abbiamo una quota del 70% di export. Non solo, per rafforzare anche questo e affrontare anche mercati importanti come può essere tutta l'Asia, mercati nuovi, facciamo parte anche di una rete di imprese, si chiama ISVA Italia Wine Academy. Siamo 8 aziende che rispecchiano e rappresentano 8 territori diversi. Villa Sandi per il prosecco, faccio esempio Allegrini per l'Amarone, poi abbiamo Frescobaldi in Toscana, per finire con Planeta in Sicilia. Ci siamo uniti proprio per affrontare anche i grandi mercati. La maggior parte dei vigneti di Villa Sandi è certificata Biodiversity Friend. La biodiversità è una scelta e una filosofia aziendale. Ha come obiettivi la cura del vigneto in termini di sostenibilità e salvaguardia della biodiversità, l'utilizzo di energie rinnovabili, l'attenzione alle risorse idriche, il mantenimento di aree a bosco e siepi in prossimità dei vigneti per garantire un habitat adeguato ad una molteplicità di specie animali che con la loro presenza sono la garanzia di un ambiente salubre. E di uve salubri, come spiega Giancarlo Moretti Polegato. Partecipiamo come azienda a un consorzio che si chiama VRT, Wine Research Team. Cos'è? È un insieme di imprese che sono unite per la ricerca. E anche nel nostro mondo la ricerca è importante. Pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo a quello che sta succedendo nel mondo, quindi anche studiare dei cloni delle viti, barbatelle che possono essere resistenti alle varie malattie, ai cambiamenti, al gelo, al caldo, alla siccità, è sicuramente un tema attualissimo. Biodiversità noi l'abbiamo messa in atto da qualche anno fa e tutte le nostre tenute sono certificate Biodiversity. Significa coltivare la vite nel rispetto di tutto quello che ci sta attorno. Addirittura l'hotel degli insetti si chiama, vivono 97 specie di insetti, tutte casette che sono proprio collocate lungo le vigne, e questa è una certificazione che non è che si ha per sempre, ogni anno si è sotto esame. Con la stessa cura di sempre, un tempo come adesso, la vendemmia è rimasta il momento più importante della coltivazione della vite, così la ricorda Giancarlo Moretti Polegato. A quell'epoca là si mangiava, si faceva anche la tavolata assieme a tutti i nostri collaboratori, perché chiaramente avevamo anche un numero più limitato di persone che lavoravano per noi, quindi si viveva assieme, era come una famiglia tutta unita che lavorava assieme, si pranzava assieme, si arrivava la sera, si partiva la mattina, quindi una cosa veramente molto confidenziale. Anche oggi comunque tutta la parte collinare continua a essere una vendemmia a mano, mentre chiaramente i vigneti che abbiamo in pianura sono più automatizzati come vendemmiatrici, ma dico in 100 anni si può dire che è rimasto tutto inalterato quello che è, queste sono queste fasi di vendemmia. E attraverso le generazioni della famiglia sono stati tramandati i messaggi e la laboriosità dei trevigiani. Non si deve fermarsi mai, anche a qualsiasi difficoltà noi cerchiamo sempre di trovare la soluzione, e nelle cose negative c'è sempre qualcosa di positivo. E credo che questo sia nel DNA dei veneti, dei trevigiani, chiaramente lavorando anche molto, perché il nostro lavoro non ha mai un orario, non c'è sabato e domenica, perché il lavoro nostro è 365 giorni all'anno, perché abbiamo attività che finisce una parte l'altra, perché poi abbiamo le visite, abbiamo la locanda, abbiamo le ricettività, abbiamo le botteghe del vino, quindi noi abbiamo un orario continuato 7 giorni su 7 tutto l'anno. Secondo Giancarlo Moretti Polegato, non ci si ferma mai e non ci sono stagioni neppure nel settore del vino e neppure un tempo stabilito per bere il prosecco o per parlare il dialetto. Ma parlo dialetto con chi parla dialetto, perché in casa ormai i figli parlano italiano e quindi no, ma io in casa mia sono nato in una famiglia che parlava dialetto sicuramente, anche perché il Veneto è orgoglioso di parlare il dialetto. Lo dicono sul prosecco: il prosecco si beve a tutte le ore, il prosecco si beve a tutte le ore, dall'aperitivo al pasto. Addirittura i tedeschi lo bevono molto anche come a colazione, assieme alle cose salate, quindi non c'è un orario che non si può bere. E poi si abbina, diciamo, a tanti piatti, non solo italiani ma anche internazionali, quindi cucina di tutto il mondo. Questo forse è anche uno dei motivi che ha contribuito al successo di questo spumante, che oggi fa parte dello stile italiano nel mondo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.